这是他的唯一的共同点。Hai aperto porte al mondo, a nuovi orizzonti.Bastasse, mi hai rapito il cuore. Hai fatto di me ciò che piace a te. Come on, salviamo, salviamociò che rimane di noi. E saltiamo, saltiamo il ponte dell'ostilità. Siamo soli in questa favola.Scalzi su terre contaminate, ora mai più fuggiamo insieme, saremo io e teProfughi di un mondo in fuga da tutto, da queste macchine. Da una falsità fatta di maschere.Salviamo, salviamo ciò che rimane di noi. Saltiamo, saltiamo il ponte dell'ostilità. Siamo soli.Questa favola puri e scalzi su terre contaminate.